Passarono 2 mesi. Per Capodanno arrivò in città il cognato e si fermò a stare da loro. Ivan Ilic si trovava in tribunale. Praskovia Fyodorovna era andata a fare delle compere. Entrando nel suo studio, Ivan Ilic trovò il cognato, un tipo in salute e sanguigno, intento a disfare la valigia. Quando questi sentì i passi di Ivan Ilic, sollevò la testa e lo guardò per un attimo in silenzio. Quello sguardo diceva tutto. Il cognato stava per spalancare la bocca dallo stupore, ma si trattenne. Quel movimento confermò tutto. Che c'è? Sono cambiato. Sì, un cambiamento c'è stato. Per quanto Ivan Ilic volesse proseguire con il cognato il discorso sul suo aspetto esteriore, quello da parte sua non disse più una parola. Giunse Praskovia Fyodorovna e il cognato le andò incontro. Ivan Ilic chiuse a chiave la porta e iniziò a guardarsi allo specchio, prima di fronte, poi di profilo. Prese un ritratto suo e della moglie e confrontò il ritratto con quello che vedeva allo specchio. Il cambiamento era enorme. Poi si scoprì un braccio fino al gomito, lo guardò, abbassò le maniche, andò a sedersi sulla ottomana e si fece più nero della notte. Non serve a niente, disse. Si alzò di scatto, si avvicinò al tavolo, prese dei fogli, iniziò a leggere, ma non ci riuscì. Aprì la porta, andò in sala. La porta del salotto era chiusa. Si avvicinò in punta di piedi e iniziò a origliare. «Ma no, sta esagerando», diceva Praskovia Fyodorovna, esagerando. «Ma non lo vedi? È un morto che cammina. Guardagli gli occhi». Non c'è luce, ma che cos'ha? Nessuno lo sa. Nikolaev, il dottore abituale, dice una cosa, ma non saprei. Lesetinsky, il rinomato medico, ne dice un'altra. Ivan Ilic si allontanò, andò in camera sua, si distese e iniziò a pensare. Il rene mobile. Gli venne in mente tutto quello che gli aveva detto il dottore, come il rene si era staccato e stava vagando chissà dove, e con la forza del pensiero cercò di afferrare quel rene e di rimetterlo a posto. Bastava così poco, gli sembrava. No, andrò di nuovo da Piotr Ivanovich, il suo amico, amico del medico. Chiamò, ordinò di attaccare i cavalli e si preparò a uscire. «Dove vai, Jean?» chiese la moglie con un'aria particolarmente triste e insolitamente dolce. Questa insolita bontà lo innervosì. La guardò con aria cupa. «Devo andare da Piotr Ivanovich». E si diresse dal suo amico che aveva l'amico medico e insieme andarono nel suo studio. Ivan Ilic lo trovò e conversò con lui a lungo. Stando ai particolari anatomici e fisiologici che si stavano verificando in lui, il dottore capì tutto. C'era qualcosa, una cosa piccolina nell'intestino cieco. Si poteva guarire. Rafforzando l'energia di un organo e indebolendo l'attività dell'altro, quella cosa si sarebbe riassorbita e tutto sarebbe andato a buon fine. Tardò un po' per il pranzo. Pranzò, chiacchierò allegramente, ma non poté trattenersi a lungo per via del lavoro. Infine andò nel suo studio e si mise subito a lavorare. Lesse le carte del processo, lavorò, ma la sensazione di aver rinviato un affare intimo e importante di cui si sarebbe occupato alla fine non lo lasciava. Quando ebbe finito di lavorare, si ricordò che questo affare intimo riguardava il suo intestino cieco. Ma non cedette a questi pensieri e andò in salotto a prendere il tè. C'erano degli ospiti, parlavano, suonavano il piano e cantavano. C'era il giudice istruttore, quello con cui speravano di far fidanzare la figlia. Secondo Praskovia Fyodorovna, Ivan Ilic trascorse la serata più allegramente del solito, eppure lui non dimenticò un attimo di star rinviando importanti pensieri sull'intestino cieco. Alle 11 si scusò e andò in camera. Da quando si era ammalato, dormiva solo nella piccola stanzetta del suo ufficio. Entrò, si spogliò e prese un romanzo di Zola, ma non lo lesse e si mise a pensare. Nella sua immaginazione stava avvenendo la sperata guarigione dell'intestino cieco. Esso si riassorbiva, rigettava, ristabiliva la sua corretta attività. Ecco, sì, così, si disse. Bisogna solo aiutare la natura. Si ricordò di prendere la medicina, si sollevò, la prese, si distese, concentrandosi sull'effetto benefico del farmaco e su come questo poteva sconfiggere il dolore. Bisogna solo prendere le medicine regolarmente ed evitare cattive influenze. Già mi sento meglio ora, molto meglio. Iniziò a palparsi il fianco. Al tatto non faceva male. E sì, mi sento davvero molto meglio. Spense la candela e si distese su un fianco. L'intestino cieco stava guarendo, si riassorbiva. All'improvviso però percepì quel vecchio dolore intenso, sordo, persistente, silenzioso, grave, in bocca quel sapore schifoso. Ebbe un tuffo al cuore, la mente gli si annebbiò. Mio Dio, proferì, ancora e ancora non smetterà mai. E di colpo la faccenda gli si presentò in maniera del tutto diversa. L'intestino cieco, il rene, si disse, ma qui non si tratta né di intestino né di rene, ma della vita e della morte. Sì, la vita è stata e ora se ne va via, e io non riesco a trattenerla. Già, perché ingannarsi? Sì, la vita è stata e ora se ne va via. Io non riesco a trattenerla. Già, perché ingannarsi? Non è forse evidente a tutti, tranne che a me, che sto morendo e che ho le settimane, i giorni, addirittura forse le ore contate. Prima c'era la luce e ora c'è la tenebra. Io ero qui e ora sono là. Là dove? Sentì freddo, il respiro si fermò. Sentiva solo i battiti del suo cuore. Che sarà quando io non sarò? Niente sarà. E dunque, dove sarò quando non sarò? Davvero la morte? No. Si alzò di scatto, voleva accendere la candela, frugò con le mani tremanti, fece cadere candela e candelabro sul pavimento e ricadde all'indietro, sul cuscino. Perché? Tanto è uguale, si diceva con gli occhi spalancati, fissando l'oscurità. La morte, sì, la morte. E loro non lo sanno e non vogliono saperlo. E non se ne dispiacciono, loro suonano. Sentiva in lontananza da dietro la porta il rumore delle voci e delle canzoni. Per loro è uguale, ma anche loro moriranno, stupidi. Tocca prima a me, a loro dopo, ma tocca anche a loro. Si divertono, animali. Il rancore lo soffocava, era una cosa straziante, penosa e insopportabile. Non può essere che siamo tutti condannati a questa angoscia spaventosa. Si mise a sedere. C'è qualcosa che non va. Devo calmarmi, devo ripercorrere tutto dall'inizio. E iniziò a ripercorrere ogni cosa. Ecco, partiamo dall'inizio della malattia. Ho battuto un fianco, eppure ero sempre lo stesso, sia quel giorno, sia il giorno dopo. Faceva un po' male, ma poi di più, poi il dottore, poi la tristezza, l'angoscia e di nuovo il dottore. E da lì sempre più giù, verso il baratro, le forze venivano meno, più giù, più giù. Sono deperito e nei miei occhi non c'è più luce. È la morte e io penso all'intestino. Io penso a far guarire l'intestino, ma questa è la morte, davvero. È la morte. Di nuovo fu pervaso dal terrore, iniziò ad ansimare, si piegò in avanti a cercare i fiammiferi e urtò con il gomito il comodino. Si fece male e si infuriò contro quel mobile che lo ostacolava. Dalla rabbia lo urtò più forte e lo ribaltò. E in preda alla disperazione, respirando con affanno, si buttò all'indietro, aspettando la morte. Ospiti intanto se ne stavano andando. Praskovia Fyodorovna li accompagnava, sentì un tonfo ed entrò nella camera. Che succede? Niente, l'ho fatto cadere senza volerlo. Praskovia Fyodorovna uscì e rientrò con una candela. Ivan Ilyich stava disteso, aveva il respiro veloce e pesante come un uomo che ha corso un chilometro. Gli occhi fissi su di lei. Che hai, Jean? Niente, è caduto. Che altro dirle, tanto non capirebbe, pensò. E infatti lei non capì. Si alzò, accese una candela e uscì in fretta, doveva accompagnare gli ospiti. Quando ritornò, lui stava ancora sdraiato, supino, gli occhi all'insù. Che hai? Ti senti peggio? Sì. Lei scosse il capo e si sedette. Sai, Jean, penso che dovremmo far venire le cetischi. Per Ivan Ilyich questo significava far venire a casa il rinomato medico senza badare a spese. Sorrise con aria sarcastica e disse no. La donna gli si avvicinò e lo baciò sulla fronte. In quel momento, mentre lo baciava, la odiò con tutte le sue forze e dovette sforzarsi per non allontanarla. A domani. Voglia e Dio che tu possa riposare. Sì. Ivan Ilyich capì che stava morendo e si trovava in uno stato di costante disperazione. Lo sapeva nel profondo del cuore che stava morendo. E non solo non riusciva ad abituarsi a quell'idea, ma non la capiva nemmeno, non riusciva a capirla in nessun modo. L'esempio del sillogismo che aveva preso nella logica del Kisevet, secondo cui Caio è un uomo, gli uomini sono mortali, quindi Caio è mortale, per tutta la sua vita gli era sembrato vero solo in riferimento a Caio, non a lui. Quello era Caio uomo, un uomo in generale, cosa sicuramente vera, ma lui non era né Caio né uomo in generale, lui era sempre stato molto, molto diverso da tutti gli altri. Era stato Vania con la mamma, col papà, con Mitia e Valodia, con i giochi, con il cocchiere, con la baglia, poi con Katinka, con tutte le gioie, i dolori, le passioni dell'infanzia e dell'adolescenza. Aveva mai sentito Caio l'odore di quel pallone di pelle a righe che Vania amava tanto? Aveva forse baciato la mano della madre, Caio? E Caio aveva forse sentito frusciare il vestito di seta a pieghe della madre? Aveva mai litigato Caio per la merenda all'istituto di giurisprudenza? Si era mai innamorato? Sapeva Caio presiedere un'udienza? E Caio sicuramente era morto, ed era giusto che fosse morto, ma io, Vania Ivan Ilyich, con tutti i miei sentimenti, i miei pensieri, Io sono un'altra cosa e non può essere che anch'io debba morire. Sarebbe troppo orribile. Questo provava Ivan Ilyich. Se davvero dovessi morire anche io, come Caio, lo saprei. Me lo avrebbe detto una voce interiore, e invece niente. Sia io che i miei compagni avevamo capito che non poteva essere come per Caio. E adesso guarda, si diceva, non può essere, non può essere, e invece è così. Come fare? Come fare a capirlo? E continuava a non capire e cercava di scacciare quel pensiero come se fosse falso, ingiusto e morboso, e provava a isolarlo dagli altri pensieri, da quelli giusti e sani. Ma quel pensiero, e non solo il pensiero, quella realtà quasi, gli si parava davanti e non se ne andava. E metteva quel pensiero in coda a tutti gli altri nella speranza di trovare in loro un sostegno. Cercava di ritornare con la mente a quei pensieri iniziali che avevano offuscato il pensiero della morte. Ma, cosa strana, quello che prima era servito a offuscare e annientare la consapevolezza della morte, ora era sparito, non aveva più nessun effetto. Nell'ultimo periodo, Ivan Ilyich passò gran parte del suo tempo a cercare di ricostruire quella catena di sentimenti che gli aveva offuscato il pensiero della morte. Quindi si diceva: mi dedicherò al lavoro. Dopotutto ho sempre vissuto per lui. E andava in tribunale, allontanando da sé ogni dubbio. Parlava con i colleghi e si metteva seduto col solito fare distratto, gettando un'occhiata pensierosa al pubblico e appoggiando le braccia sciupate sui braccioli dello scanno di quercia, come al solito, si chinava verso il collega passandogli dei fogli e dicendo qualcosa sottovoce. Poi, alzando gli occhi e mettendosi a sedere dritto, pronunciava la formula di rito e cominciava il processo. D'un tratto, nel bel mezzo dell'udienza, il dolore al fianco, non curante dello svolgimento del processo, iniziò a divorarlo. Ivan Ilyich si metteva in ascolto, scacciava il pensiero di lei, ma quella persisteva, arrivava e gli si parava davanti, e lui rimaneva impietrito. Il fuoco nei suoi occhi si spegneva. E di nuovo cominciava a chiedersi: possibile che solo lei sia la verità? E sia i colleghi che i subalterni, con sconcerto e dispiacere, vedevano che lui, un giudice così brillante e ricercato, perdeva il filo e si confondeva. Si riscuoteva, cercava di riprendersi e di arrivare in qualche modo alla fine dell'udienza, e ritornava a casa con la triste consapevolezza che il suo lavoro non poteva, come aveva fatto prima, nascondergli quello che lui stesso voleva nascondere. Gli divenne chiaro che il suo lavoro non sarebbe servito a liberarlo da lei. E la cosa peggiore di tutte era che lei lo distoglieva da se stesso non affinché lui facesse qualcosa, ma solo perché lui la guardasse dritta negli occhi, la guardasse e senza poter fare niente soffrisse in maniera indicibile. Per tentare di salvarsi da quella condizione, Ivan Ilyich cercava riparo dietro ad altri paraventi. Ed effettivamente questi paraventi per brevissimi periodi riuscivano a proteggerlo, ma poi di colpo non solo questi si disintegravano, ma si irradiavano di luce come se lei potesse penetrare attraverso qualsiasi cosa e niente la potesse offuscare. Gli capitava in quest'ultimo periodo di entrare nella sala che lui stesso aveva arredato, quel salotto dove era caduto e per il quale il solo pensiero gli sembrava ridicolo, aveva sacrificato la sua vita poiché lui sapeva che la sua malattia era iniziata con quella caduta. Gli capitava di entrare e vedere che sul tavolo laccato c'era un graffio provocato da chissà cosa. Ne cercava la causa e capiva che doveva essere stata la decorazione di bronzo sulla copertina di un album che si era piegata di lato. Prendeva in mano l'album, a cui teneva molto, che aveva messo insieme con tanto amore, e si arrabbiava per la negligenza della figlia e degli amici. L'album in un punto era strappato, in un altro aveva le foto sottosopra, lo rimetteva meticolosamente in ordine e sistemava la decorazione. Poi gli veniva in mente di spostare tutto quell'établissement con gli album in un altro posto, vicino ai fiori. Chiamava il lacchè, venivano ad aiutarlo la figlia o la moglie. Loro non erano d'accordo, lo contraddicevano, lui sbraitava e si adirava, ma tutto questo era un bene perché almeno non si ricordava di lei e lei non si faceva vedere. Ma quando la moglie gli disse, mentre si era messo a spostare qualcosa, «Lascia fare agli altri o ti farai male un'altra volta», di colpo lei balenò fra i paraventi. Lui la vide, lei balenò, lui ancora sperava che si sarebbe nascosta, ma involontariamente tendeva l'orecchio al suo fianco. Stava lì, doleva ancora e non poteva dimenticarsene, e lei chiaramente lo guardava attraverso i fiori. Perché tutto questo? La verità è che qui, su questa tenda, io, come in battaglia, ho perso la vita, non è vero? Com'è terribile e com'è stupido. Non può essere. Non può essere. Ma così è. Andò nel suo studio, si distese e rimase di nuovo da solo con lei, a quattro occhi con lei, a non fare niente, solo a guardarla negli occhi e a rabbrividire.